9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, buon martedì 13 di settembre. Ieri panico ha iniziato a diffondersi, prima nella redazione ma poi nella redazione in tutti i siti, in tutti i media eccetera. Erano fine di mattinata alle 13.30, 13.40 quando le agenzie hanno iniziato a battere la notizia di uno scoppio. All'inizio veniva attestato in una centrale nucleare in Francia, e quindi l'immediato allarme di Fukushima ha preso in pochi minuti a rimbalzare su tutto il mondo. Abbiamo appreso poi nelle mezz'ore successive che l'impianto interessato era quello a Codolè, un posto in lingua d'oca a 200 e qualcosa chilometri dalla frontiera italiana. Abbiamo appreso poi che c'era stato un morto e tra i feriti un grande ustionato. Dopo un'ora e qualche cosa abbiamo iniziato a capire qualcosa sulle caratteristiche dell'impianto. Innanzitutto non era e non è una centrale nucleare, è un sito molto ampio, Marcul, che ospita tre vecchie centrali nucleari dismesse perché sono degli anni 50, alla fine degli anni 50, ed è un sito invece che occupa uno stabilimento di ritrattamento del combustibile nucleare, sia quello civile che quello utilizzato invece e quindi più arricchito ancora nel militare. E questa esplosione pare che sia stata in una fornace che però tratta residui metallici a bassissimo livello di radiazione, cioè che sono entrati in contatto con il materiale, ma attraverso, pare nella descrizione del sito francese, così si legge naturalmente, attraverso poi barriere isolanti, quindi dovrebbero essere a bassissima radiazione, e in questa fornace vengono ritrattati e compattati questi residui metallici. In questa fornace vi sarebbe stata un'esplosione e appunto di qui la vittima e gli ustionati. Però naturalmente per tutto il pomeriggio e fino a sera l'allarme è stato vivissimo e ci si è riposti il problema del post Fukushima, delle tante centrali nucleari a pochi chilometri dall'Italia. E allora cominciamo innanzitutto, prima di descrivere quello che è avvenuto, del capire come mai in Francia non c'è stato nessun panico paragonabile a quello che invece ha portato noi nel post Fukushima a fare la scelta che abbiamo fatto nel referendum sul nucleare, ha portato la Germania a programmare una molto lunga uscita dal nucleare, invece vede altri paesi che non hanno assolutamente, come la Francia, questa intenzione. Su tutti i giornali trovate oggi la cronaca del sindaco delle autorità del paese di Codolè, che non ci hanno pensato neanche per un secondo a nessuna misura particolare, e continuano a difendere naturalmente lo stabilimento nucleare come uno dei proventi di maggior ricchezza del paese. Si sono attenuti alle linee venute dall'Agenzia di Sicurezza Nazionale Francese sul nucleare, la quale ha attestato che non vi era nessuna fuga e quindi nessun problema e tutti avanti come prima. Ma qual è la rete in Italia di tutela in caso di incidenti di questo tipo? Quale tipo di rilevazioni si fanno e con quali tempi di reazione per assicurare voi tutti che abbiamo fatto la nostra scelta non nucleare, ma siamo anche in condizioni di intervenire perentoriamente nel giusto tempo per consentire a tutti di assumere le misure più adeguate in caso di incidenti alla frontiera? Ecco, ce lo facciamo dire innanzitutto, e lo ringrazio perché può stare con noi pochi minuti, dal direttore dell'ufficio gestione dell'emergenza della protezione civile, il dottor Fabrizio Curcio, che saluto e ringrazio. E oltre a salutarlo e ringraziarlo, in questi pochi minuti gli chiedo di farci un punto: che cosa è successo ieri o non è successo e qual è la rete di rilevamento pronta a scattare in queste condizioni in caso di incidente nucleare in uno degli impianti svizzeri o francesi o sloveni che sono vicini al nostro confine. Buongiorno Curcio, a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. Mi pare che la situazione l'avete già descritta in maniera molto dettagliata e specifica da un punto di vista di ciò che è accaduto, quindi le informazioni che avete dato sono assolutamente in linea con quelle che sono le informazioni che anche noi abbiamo avuto poi nel tempo dalle autorità francesi e dalla rete di monitoraggio europeo, perché ricordo che questa attività, la parte che riguarda la radiosorveglianza e quindi le situazioni che comunque presentano problemi di radioattività e nucleare, ha una rete di comunicazione internazionale molto, molto severa, che poi è quella che si è anche attivata anche per l'Europa per quello che riguardava l'episodio citato in Giappone. Quindi l'evento è stato seguito sin dall'inizio, inizialmente anche noi tramite le prime comunicazioni che provenivano dalla Francia. Abbiamo attivato subito come Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quelle che sono le ordinarie, tra virgolette, attività che si fanno in questi casi, cioè un coordinamento degli enti che maggiormente sono coinvolti nell'eventuale gestione di una situazione emergenziale, proprio per iniziare a scambiare le informazioni che ognuno di noi aveva e poter poi farci un'idea di quello che tecnicamente era in atto e quindi eventualmente le contromisure da prendere. Quindi il capo del Dipartimento ha convocato questa riunione di coordinamento presso il Dipartimento di Protezione Civile, sono intervenuti l'ISPRA e i vigili del fuoco e anche il Ministero degli Affari Esteri proprio per condividere le informazioni. Questi enti diciamo che sono poi quelli che gestiscono, in particolare ISPRA, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, le reti di sorveglianza dell'attività ambientale, e quindi sono proprio coloro che sul territorio, poi affiancati anche alle reti regionali, ci forniscono i dati in tempo reale sulle misurazioni che vengono fatte sul suolo italiano. Evidentemente le informazioni che provenivano dalle autorità francesi, anche dall'Europa, sin dall'inizio hanno confermato che non c'era dispersione di materiale radioattivo, non di meno però il Dipartimento ha comunque sensibilizzato tutte le proprie strutture proprio per implementare anche l'attività di monitoraggio, perché l'attività di monitoraggio viene fatta da delle reti appunto che sono fisse e presenti sul territorio nazionale, come detto gestite in particolare da ISPRA e dal Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, e poi c'è ovviamente la possibilità in taluni casi di implementare anche con delle reti mobili regionali questo tipo di monitoraggio, cosa che è stata fatta sia in Liguria che in Piemonte. Noi ordinariamente su queste situazioni ci muoviamo secondo un piano che è stato emanato il 19 marzo del 2010, quindi un piano assolutamente attuale, che comunque non è il primo piano ma era già una riedizione di piani esistenti, quindi il paese è comunque dotato di un piano nazionale. Non è stato attivato il piano perché non ce ne sono stati i presupposti, quindi noi abbiamo appunto con queste riunioni cercato di capire se era il caso di attivare o non attivare il piano nazionale. Evidentemente per le informazioni che abbiamo avuto e che anche voi appunto avete riferito, non abbiamo ritenuto opportuno in questa fase attivare il piano, ma incrementare un livello, come dire, di monitoraggio proprio per seguire la situazione. Alle 18.30 ieri sera una comunicazione poi ufficiale ha qualche modo ribadito addirittura che la SN, che è l'agenzia di sorveglianza francese sulle attività radiologiche nucleari, aveva sospeso le attività della propria unità di crisi, e quindi evidentemente era la conferma definitiva che non c'era stato, come dire, dispersione di materiale radioattivo. Ci siamo sentiti con i colleghi di ISPRA del Corpo Nazionale, con i colleghi delle regioni, e ovviamente il monitoraggio è continuato e continua, ma come continua nell'ordinario. Una domanda ancora, dottor Curcio. A qualunque lettore di Giornale Italiano o chi consultasse i siti può vedere che in tutto l'arco alpino italiano, entro 200 km, vi sono 24-25 impianti nucleari tra Francia, Svizzera, Germania e Slovenia. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di megawatt di potenza installata. La domanda che le faccio è: poiché molti si preoccupano del fatto che vi siano diversi livelli, per così dire, di tutela delle notizie in materia di sicurezza di impianti e di incidenti nucleari, e quindi vi siano paesi che possono avere sistemi di copertura maggiore rispetto ad altri che hanno invece improntato la loro reazione al principio della massima cautela. Io non lo credo, credo che il principio della massima cautela sia universale in una materia come questa, però partiamo dal presupposto che molti ascoltatori sono convinti che vi sia chi invece tende a reagire più tardi e a coprire le notizie in materia di incidenti nucleari. In questo caso, dottor Curcio, la nostra rete di rilevazione sul territorio ha la propria strumentazione, come lei ci ha detto, ma anche propri piani operativi per le fasce di rispetto in caso di incidenti in ciascuno di questi gruppi di centrali sul diverso arco alpino e nelle diverse aree italiane. Cioè, noi abbiamo nel piano di cui lei ci ha accennato, rivisto al 2010, delle misure pronte a scattare in caso di incidente per ciascuno di questi tipi di impianti? Allora, il piano nazionale ovviamente presuppone il fatto che ci sia uno scenario, come dire, generale, tant'è che il piano prevede due fasi, una fase di preallarme e una fase di allarme. Nella fase di preallarme, praticamente quasi in via automatica, si accede nel momento in cui c'è un incidente in una centrale nucleare all'interno dei famosi 200 km dal confine nazionale, però deve essere accertato l'incidente. Quindi, per esempio, nel caso di specie non si è mai parlato di incidente di tipo nucleare, questo è stato il motivo per cui il piano poi di fatto non ha avuto la sua naturale applicazione. Perché in termini tecnici quello di ieri è un incidente industriale a tutti gli effetti, non nucleare. A tutti gli effetti è stato definito dall'autorità francese, quindi anche riportato dall'Europa, come un incidente industriale in un sito nucleare, che ha una valenza completamente, diciamo, diversa, non solamente in termini, come dire, così di dizione, ma evidentemente di coinvolgimento. Cioè, l'incidente industriale presuppone il fatto che non ci sia coinvolgimento nell'incidente e dispersione di materiale come dire radioattivo, e quindi questo evidentemente vanifica l'applicazione di un piano che invece è specifico sulla diffusione e sulla appunto presenza di materiale radioattivo. Tornando al piano, il piano tiene conto di scenari generali relativamente agli incidenti che vengono posti sui 200 a una distanza dal confine italiano di circa 200 km. È chiaro che anche qua parlare di incidente nucleare è un termine assolutamente generico, cioè bisogna poi calarsi sullo scenario specifico, perché l'incidente nucleare ha poi nella sua attuazione una serie di livelli e di step che stabiliscono gravità differenti a seconda della quantità di materiale che si disperde, della tipologia di incidente. Quindi è evidente che anche il sistema italiano non può che rifarsi a quelle che sono le procedure delle singole centrali, che ogni centrale ha in qualunque territorio internazionale, e poi applicarlo a livello nazionale a seconda degli effetti. Quindi le misure evidentemente a tutela della popolazione verranno poi prese nel momento in cui c'è lo scenario specifico. Ovviamente il piano prevede dei livelli di attivazione che vanno dal monitoraggio all'intervento sulla popolazione, però questo chiaramente viene applicato sullo scenario specifico. Benissimo, io ringrazio molto il dottor Curcio, e quindi più che rassicurare, ripetere quello che sappiamo sulla natura di questo incidente non nucleare, sulla assenza di rilevazioni di rilascio di materiale radioattivo, abbiamo anche riflettuto un secondo insieme al dottor Curcio sulla rete italiana in caso di incidente in uno dei tantissimi impianti nucleari, referendum o meno, che sono però ai nostri confini, visto che la maggioranza dei paesi avanzati non ha fatto la scelta che ha fatto invece l'Italia con il referendum, e io scommetto anche che la Germania, che pure ha rifasato per 3 volte già la vita residua delle sue centrali nucleari, tornerà anche sulla decisione che tanto entusiasmo suscitò in Italia prima del referendum, perché di fronte al costo di diventare importatore netto, quindi arricchire ulteriormente i francesi che fanno il 75% della loro energia elettrica dal nucleare attraverso la chiusura delle proprie centrali, io penso che i tedeschi ci ripenseranno, hanno anche problemi, ne abbiamo parlato una trasmissione in cui analizziamo in dettaglio la scelta tedesca nella loro rete di trasporto ad alta tensione nella parte sud del paese, e l'uscita dal nucleare aggraverebbe ulteriormente questi problemi, dovrebbero investire tantissimo, dovrebbero vedere la propria bilancia commerciale abbattersi nel segno più di parecchie decine di miliardi. Io voglio vedere se davvero succederà. E in ogni caso, a distanza di tanti mesi dalle polemiche in cui molti ascoltatori mi massacrarono e ricevetti decine e decine di migliaia di mail in quanto fui il primo giornalista italiano a fare un assessment di Fukushima con un articolo sul Messaggero, a distanza di tanti mesi io devo dire la verità che quello che era un incidente nucleare di gravità 6, cioè uno dei più gravi rispetto al massimo disastro che è 7 della scala internazionale IE degli incidenti nucleari, eppure per quante polemiche mi siano valse i miei interventi su Fukushima, siamo ancora in attesa di capire qual è il numero delle vittime di Fukushima, perché il numero delle vittime di Fukushima a oggi è fermo a un numero purtroppo per me rassicurante, e per tutti coloro che hanno considerato che io fossi una specie di propalatore del nucleare pagato dalle agenzie e dalle aziende che producono i reattori, è per tutti loro deludente, perché grazie al cielo il numero è zero. Ecco, vorrei chiarirlo che il numero è zero. e ancora zero il numero di coloro che sono deceduti direttamente per via degli incidenti gravissimi avvenuti per lo tsunami a Fukushima. Ma vediamo di capire un po' meglio di questa, della psicologia francese innanzitutto, ma delle scelte di politica energetica e strategica francese che stanno dietro la difesa del nucleare. E con noi è Eric Joseph, che è il corrispondente in Italia del quotidiano Liberation e del giornale svizzero Le Temps, e io lo ringrazio e lo saluto. Buongiorno Eric. Buongiorno a voi. Allora, io perché ho chiamato Eric? Perché vorrei fare di qui e fino alla fine della trasmissione un approfondimento anche su un altro fatto, perché ieri nel nucleare nel mondo la notizia che poi si è rivelata alla fine giornata quella significativamente più importante non era quella dell'allarme giustamente sollevato per ora intorno alla natura, alla portata, al rilievo, alle conseguenze dell'incidente avvenuto nell'impianto di riprocessamento dei combustibili nucleare in Francia vicino al nostro confine, bensì un fatto di cui quasi nessuno parla invece: l'inaugurazione della grande centrale da 1000 megawatt atomica iraniana di Bushehr, con tanto di ministro dell'energia russa, perché l'impianto avviene grazie al fatto che la Russia ha una grande mano sulla tecnologia iraniana ed è anche la grande mano di tutela internazionale attraverso cui è andato avanti il programma atomico iraniano. Se ne parla da anni, sapete quali sono i rischi, quali sono i sospetti, il lunghissimo va e vieni dei tecnici della IEA fino a che hanno mollato la presa e l'Iran è andata avanti nella estensione ed espansione della sua potenza, nella sua potenza di aria. Però solo due settimane fa, in un'occasione formalissima, ufficialissima, un discorso di fronte all'intero corpo diplomatico, proprio il presidente francese Sarkozy se ne è uscito, forte del suo successo internazionale rispetto alla Libia, visto il traino che ha avuto la Francia su tutta quella vicenda, se ne è uscito con un'espressione che ha colpito tantissimo gli osservatori, perché la Francia, che pure non è uno dei paesi in prima fila insieme all'America, insieme al Regno Unito a sospettare il programma nucleare iraniano, se ne è uscito con una frase di fronte al corpo diplomatico molto tosta, dicendo: bisogna che io avvisi l'Iran che o la piantano oppure veramente non si può più escludere l'ipotesi di una missione militare, cioè di raid aerei sugli impianti iraniani, il che, detto da un presidente della Francia, fa un po' impressione, a dire la verità. Allora Eric, noi adesso andiamo direttamente in pubblicità, al ritorno ti cedo direttamente la parola, perché ci devi spiegare primo se è vero quello che i giornali italiani oggi raccontano, cioè tutti sicuri, tutti tranquilli in Francia, paese che non ha nessun dubbio, e come mai. E secondo, però, dobbiamo anche unire questa riflessione, perché poi dietro il nucleare e la potenza energetica c'è anche oramai un discorso che torna alla grande di grandeur di politica estera francese. Eccoci tornati in studio, come prevedevo, reazioni da parte degli ascoltatori improntate spesso a un certo calore. C'è chi mi invita a impugnare la zappa, c'è chi mi dice: ma perché dovrebbero dirti che cosa è successo? Naturalmente tutti convinti che su questi temi è impossibile, le autorità mentono, c'è un grande complotto mondiale per tenervi all'oscuro dei veri rischi a cui sicuramente siete esposti, ci sono ascoltatori convinti che le vittime Fukushima sono migliaia e migliaia, testualmente migliaia e migliaia, e cos'è? E ce le nascondono agli occhi del mondo intero, secondo voi? Non lo so, io sono uno abituato a vedere, a tentare di capire i dati di fatto e a non essere né al servizio di interessi pubblici o privati, se non li capisco, non aderisco, per così dire, eccetera eccetera, e né tantomeno così tragicamente convinto che la modernità sia solo un complotto di proiezione di macchine cinesi, di ombre cinesi sui muri. Io credo nel fatto che la tecnologia è, come tutto ciò che è figlio della mente umana, limitata, perché gli uomini hanno molti difetti, ma è qualche cosa di stupefacente evoluzione. Non ci dà la risposta a tutto, non ci dà la sicurezza su tutto, ma ci dà la possibilità di fare cose impensabili rispetto a pochi anni fa. Allora Eric Joseph, eravamo partiti con queste due domande. Primo, è davvero così come ci descrivo, tutto a posto, tutto sicuro, tutti tranquilli in Francia, un paese che agli giornalisti italiani colpiva perché dicevano: ma ragazzi, qui non è successo assolutamente niente, comunque difendiamo l'impianto senza nessun problema? E secondo, quanto c'è anche nella nuova politica estera francese anche di questa sicurezza energetica in un'Europa che oramai di sicurezza non ne ha, al punto tale che Sarkozy dice agli iraniani: leva il dito, che eravamo abituati a vedere l'America levare nei confronti, cioè il grande Satana levare nei confronti dell'Iran con la centrale nuova di Bushehr. Eric. Oscar, in realtà sono due domande abbastanza separate, nel senso che nel primo caso sulla questione sulla sicurezza nucleare in Francia, è vero che storicamente c'è un largo consenso in Francia attorno all'energia nucleare, che produce quasi l'80% dell'energia elettrica, che offre 80% dell'energia elettrica in Francia, e questo consenso politico viene da lontano, viene appunto dagli anni 70, quando appunto si è fatto la scelta radicale del nucleare. E questa sicurezza francese dell'opinione pubblica viene per buona parte dal fatto che anche non ci sono stati grossi incidenti nucleari in Francia, e che gli attuali 59 e 58 reattori esattamente funzionano bene e forniscono questa energia elettrica. Tuttavia comincia anche in Francia a essere un'evoluzione dell'opinione pubblica. Questa evoluzione è venuta già subito dopo l'incidente di Chernobyl nell'86, quando l'agenzia di sicurezza nucleare dell'epoca, che non aveva questo nome, affermava che la nuvola radioattiva non era passata sul territorio francese, che si era fermata alla frontiera francese. E questa menzogna, questa bugia è resistito alcuni giorni, finché tanti turisti francesi venivano in Italia e si rendevano conto che in Italia c'erano dei provvedimenti, delle misure di controllo e di divieto di alcuni frutti, alcuni prodotti, e che non erano stati presi in Francia. E da lì è cominciato a proprio essere rimesso in discussione questa autorità nucleare, e tutti si ricordano in Francia dell'ingegnere Pellerin, che era quello il portavoce in qualche maniera dell'autorità di sicurezza nucleare, che affermava che appunto la Francia non era stata colpita dalla nuvola nucleare. Da lì c'è stato un piccolo cambiamento nell'opinione pubblica, e che ha cominciato a farsi delle domande sulla realtà del pericolo nucleare, e dunque lo Stato francese ha risposto con una nuova legge e rinforzando proprio questa autorità che oggi è considerata abbastanza indipendente, che sembra dare le notizie abbastanza in tempo reale, e dunque una certa fiducia l'ha riconquistata, ma non al punto cancellare il dibattito sul futuro nucleare in Francia, a tal punto che oggi, sotto la pressione anche del Partito dei Verdi, gli esponenti socialisti parlano chiaramente di uscita del nucleare. Allora, un orizzonte abbastanza lungo, le posizioni sono diverse secondo i candidati, poi siamo in Francia adesso in situazione di primarie per il Partito Socialista, e questo è uno dei temi su cui i candidati si confrontano. Ad esempio Martine Aubry, subito prima dell'incidente di Codolet, il giorno prima sulle pagine di Libération del mio giornale aveva annunciato che cioè lei voleva proprio uscire del nucleare, e dunque vuol dire che c'è il dibattito, anche se è vero che rispetto a ieri l'incidente non c'è stato nessun panico, nessuna idea di una catastrofe nascosta, però l'opinione pubblica in Francia anche cambia rispetto a questa fonte energetica. Poi, per quanto riguarda l'altra domanda, la questione di Sarkozy e dell'Iran, questo è proprio la strategia di politica estera di Sarkozy, che è totalmente diversa, che c'entra poco con la politica energetica francese. Ma è da prendere sul serio questo aspetto tosto dell'ultimo Sarkozy, al punto tale da per la prima volta sentire un presidente francese che parla direttamente di azioni militari nei confronti dell'Iran? Beh, il tono di Sarkozy sull'azione militare è senz'altro, a questo livello non aveva pronunciato queste frasi così dure, così determinate, però in realtà da anche prima che sia Presidente della Repubblica, da quando è Presidente della Repubblica, la sua pressione sull'Iran è sempre più forte. Basta ricordare anche le sue dichiarazioni in Italia al vertice del G8 G20 all'Aquila, in cui era stato molto molto duro, molto pesante contro contro l'Iran con avvertimenti molto forti, e questa è una linea che ha portato già dall'inizio del suo mandato. Senz'altro adesso le parole usate da Sarkozy sono sempre più chiare, però l'atteggiamento verso il contenimento del regime iraniano di Ahmadinejad non viene dalle dopo rivoluzioni arabe, nel senso che l'atteggiamento molto duro nei confronti dell'Iran risale a ben prima del cambiamento di politica araba verso il Mediterraneo, verso il sud del Mediterraneo, e molto prima dell'intervento in Libia. Questo è proprio una strategia, una volontà di Sarkozy, che considera il regime iraniano come un regime pericoloso. E naturalmente noi siamo molto presi dalla nostra eurocrisi, oggi giornata sui mercati di rilassamento dopo tante botte, quindi da domani che riaccendiamo i fari sui mercati. Oggi le cose andranno bene, anche se i futures americani vedo che nel frattempo si stanno un po' riallineando a ribasso in attesa dell'apertura, però vediamo. Ma in ogni caso noi siamo un po' disattenti su quello che sta capitando, perché in questi ultimi giorni l'aumento della tensione tra Turchia e Israele è fortissimo. È evidente che il doppio passo, la totale disattenzione, diciamo così, apparente del mondo occidentale verso quello che capita in Siria, è perché la Siria è il corridoio che è usato sempre dall'Iran per rifornire Hezbollah in Libano. È evidente che la Turchia ormai ha un progetto di medio-lungo termine per diventare la potenza di area e per affiancare, anzi per tutelare l'Egitto, la cui transizione militare sta andando sempre di più verso il sostegno alla fratellanza islamica. Quindi cambio di segno sia della Turchia che dell'Egitto, della tradizionale politica nei confronti di Israele, di vicinanza Israele, cambio radicale di segno. Ieri siamo arrivati al punto in cui il Presidente della Repubblica e il premier turco, che hanno tra virgolette ripulito i vertici delle forze armate turche, perché ne hanno arrestato nell'ultimo anno diverse centinaia di alti ufficiali, e adesso ne hanno ottenuto nell'ultimo mese il rinnovo totale di tutti i vertici, li hanno riallineati al governo dell'HPP. Però abbiamo assistito al fatto che per la prima volta la Turchia ha detto che manderà navi militari con la missione di ingaggiare direttamente navi militari israeliane che dovessero agire fuori le 12 miglia delle acque territoriali israeliane. Quindi perché c'è una parte di mondo in cui tra Iran, Turchia e Nuovo Egitto cambia radicalmente il segno della politica, e a questo punto si spiega anche perché Sarkozy abbia questo tono. Però il fatto che l'Iran inaugura dopo tanti anni, ieri ha inaugurato la sua centrale nucleare da 1000 megawatt sotto il segno della presenza russa, e che ci informi stamattina che altri 20 sono i siti per nuove centrali per fare fino a 24.000 megawatt di energia dal nucleare, dovrebbe fare riflettere forse coloro che giustamente si scaldano tanto per il pericolo e i rischi del nucleare nel resto del mondo. Allora, tra questi naturalmente ci sono le organizzazioni che tradizionalmente monitorano e fanno informazioni e controinformazioni su questo tema, tra cui Greenpeace. Abbiamo con noi Giuseppe Onufro, perché ieri Greenpeace è stata tra le più tempestive nell'informare che per esempio l'impianto in cui è avvenuto l'incidente ieri in Francia, Codolè, era un impianto sul quale non sono avvenuti gli stress test. Gli stress test in effetti riguardano le centrali nucleari in esercizio, quello non era una centrale, però insomma era un impianto del quale giustamente Greenpeace, anche WWF ha affiancato Greenpeace in questa azione, hanno iniziato a dirci: guardate che ne sappiamo abbastanza poco di come avvengono, come viene lì il processamento delle scorie. Allora, Giuseppe Onufrio, all'indomani di queste notizie un po' più rassicuranti, eppure che cosa resta da dire, che cosa c'è da fare ancora intorno ai temi dell'incidente? Ma intanto bisogna ricordare chi si ascolta che il ciclo del combustibile nucleare non è solo il fatto delle centrali, ma è un ciclo industriale piuttosto complesso che ha diverse fasi con diversi livelli di rischio. Lì nell'area di Markul, per esempio, c'è un altro impianto che produce combustibile a base di plutonio, quindi le preoccupazioni dalla parola Markul erano più legate a quell'altro impianto che non a questa fonderia. Quello che purtroppo è stato un morto, come purtroppo ce ne sono tanti nell'industria, quello è un incidente convenzionale. Quello che secondo me viene fuori è che in qualche modo l'industria nucleare si vanta, e in parte ha ragione, di avere livelli di procedure di sicurezza superiori a quelli di altre industrie, purtroppo però questi livelli di sicurezza non sono assoluti, e anche quanto lei diceva prima rispetto alla trasparenza, noi abbiamo visto, ricostruendo tutta la vicenda giapponese, una serie interminabile di omissioni e di cose che si sapevano che non si sono fatte, cioè a dire che quello che succede normalmente in un impianto industriale normalmente ha a che fare con, diciamo, conseguenze che riguardano in primo luogo i lavoratori degli impianti. Nel caso nucleare purtroppo quando succede, è raro ma può succedere, quando succede il grande incidente, il problema è che vengono coinvolte aree di territorio molto ampie e soprattutto vengono coinvolte per molto tempo. Ora io credo che vedremo gli stress test che risultato daranno. Per dare l'informazione a chi ci ascolta, il 15 di settembre gli operatori degli impianti dovranno consegnare in Europa alle proprie agenzie di sicurezza le loro valutazioni, queste verranno sottoposte a verifica dalle autorità di sicurezza che le renderanno note per commenti e per obiezioni da circa metà ottobre, quindi a fine di dicembre ci dovrebbe essere una review internazionale, una prima review per un rapporto finale che verrà fatto ad aprile. Devo dire, noi abbiamo visto con soddisfazione, questo è la prima volta che succede, quindi ci sarà la possibilità di fare una valutazione un pochino più attenta impianto per impianto, quali sono quelli che effettivamente sono più a rischio. Ricordo che l'Italia ha qualche impianto attorno a sé che per desta qualche preoccupazione, per esempio quello in Slovenia di Krško, che sta posizionato su una faglia sismica, e poi ce ne sono altri in Spagna e in Svizzera e in Germania. Quelli tedeschi sono stati chiusi per fortuna adesso, e io credo che questo che succede dovrebbe farci riflettere tutti sulla possibilità di percorrere delle soluzioni alternative. La scelta della Germania, che molto dal punto di vista economico è molto più impegnativa della nostra col referendum, implicherà una rivoluzione dal punto di vista della produzione di elettricità, sia sulla rete elettrica che per l'investimento in nuove tecnologie. Noi in Italia continuiamo a fare uno stop and go sulle rinnovabili, ma dovrebbe essere interesse di tutti organizzare per bene le nostre filiere industriali, perché c'è un pezzo di Europa, la Germania, l'Austria e la Svizzera, che stanno pigliando una direzione. Io credo che l'Italia è il secondo paese manifatturiero dopo la Germania, buona parte del nostro sistema produttivo lavora per il mercato tedesco, non dovrebbe essere Greenpeace a dire questo, ma no, è chiaro, ma questo è indubbio. Dovremmo fare una riflessione, perché l'Italia su queste tecnologie può dire la sua. Io credo che qual è il problema? Che noi abbiamo tante piccole e medie imprese, queste in alcuni settori merceologici nel corso degli anni si sono organizzate in distretti, ora la finestra di tempo per rincorrere la Germania non è tanta. La politica dovrebbe muoversi per organizzare. Io credo che sia un interesse dell'ambiente, dell'occupazione farla più presto. Purtroppo allora io la devo fermare, perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Non c'è dubbio che se la Germania davvero andrà avanti sulla questo terzo cambio di idea che ha avuto sullo stop alle centrali, l'impatto che avrà su tutte le filiere europee è molto rilevante, perché stiamo parlando di un paese che finora faceva il 25% della sua energia elettrica da nucleare, ed è chiaro che per il suo assorbimento, il suo consumo, il rilievo del suo PIL e la quantità di industria energivora che c'è in Germania, beh, lì c'è molto da fare, da convertire. Io infatti credo che nel tempo vediamo se questa rimane davvero la prospettiva con questi tempi che hanno già deciso, ma non c'è dubbio che la ricaduta economica, e quindi le cose da fare come tecnologia, investimenti eccetera eccetera, per ogni paese e innanzitutto per noi, visto il rilievo del nostro interscambio con la Germania, impongono le scelte su cui Giuseppe Onofrio ci invitava a riflettere. Allora sentiamo un po' di ascoltatori rapidamente, l'invito come sempre a dare dei flash, ma Silvio chiama da Rovigo, prego. Sì, buongiorno, rapidamente, la questione è questa, dopo Ferragosto, la data precisa non lo so, c'è stato un incidente nucleare alla centrale di Bohunice in Slovacchia, sì, vicino alla zona di Piestany. La notizia non è stata minimamente riportata dalla stampa italiana e la versione ufficiale data dalle autorità che controllano l'energia, sì, è che praticamente c'è stato un errore da parte della squadra di manutenzione che accidentalmente avrebbe fatto accendere la sirena dell'allarme antiatomico. Comunque ci sono state le solite scene di panico, annunci sulle radio, gente che ha preso la pillola antiradiazione, centralini intasati eccetera eccetera. voglio dire che Bohunice in Slovacchia dista in linea d'aria non più di 600 chilometri dall'Italia, insomma. Però Silvio, io abbiamo controllato tutti ieri l'elenco che è regolarmente aggiornato sul sito AIA degli incidenti, in effetti è classificato come un non incidente, quindi, però ripeto, la IEA ci dice, sono passate settimane che è avvenuto, lei giustamente dice in Italia non se n'è parlato, se uno va a controllare ce n'è in media nell'elenco ufficiale IEA, sono riportati eventi rispetto alle oltre 330 centrali attive sul totale di 430 che ci sono, il resto sono in manutenzione, ma comunque sono comunque tutte attive. Ogni quasi due giorni di ogni mese sono riportate da tutto il mondo eventi, incidenti, notti, allarmi per incidenti poi rientrati. Quindi il calendario di questo tipo di cose nella atti ufficiali della IEA è un calendario che comprova, dal mio punto di vista, una certa solerte attenzione. Sentiamo Margherita dalla provincia di Milano. Prego Margherita. Sì, buona giornata. Sì, io avrei voluto dire le stesse cose che sono state dette dall'intervento, il penultimo intervento, esattamente le stesse. Negli anni di vivevo in Francia con tutta la mia famiglia, mentre il resto della mia famiglia era in Italia. Noi non sapevamo nulla, abitavo nella regione parigina, non sapevamo nulla della faccenda di Chernobyl, si minimizzava completamente e quando qualcosa è trapelato era per dirci che non ci toccava, che la nuvola radioattiva non sarebbe assolutamente passata nei nostri paraggi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dire che poi in realtà, a pensarci bene, anche noi in Italia, per cose meno gravi, ma per Seveso, l'incidente di Seveso, qui che nel nord Italia fu molto grave, anche lì si tentò di nascondere il tutto fino alla fine. Viviamo un periodo di crisi molto acuta, certi presidenti e certi capi di Stato perdono un po' la testa, a me sembra, in queste circostanze, poi reagiscono secondo il loro carattere. In 20 anni di Francia, mi permetto di dire che un po' i francesi li ho conosciuti, Sarkozy duro, tosto e dire poco, lo è sempre stato, per alcuni, per quelli che non lo amavano era anche pericoloso. Sono personaggi comunque che reagiscono in base alla loro politica, in base loro, strettamente chiaro, loro, e forse ne hanno anche il diritto. No, quindi io direi, carità, noi italiani pensiamo soprattutto a noi stessi, quindi fidiamoci molto relativamente di quello che ci dicono e soprattutto nelle zone limitrofe aumentiamo e teniamo molto sotto controllo, monitoriamo, perché in effetti è un vizietto piuttosto generalizzato da parte dei politici che sono al potere di nascondere quelle le verità scomode. Grazie Margherita, noi abbiamo sentito che la Protezione Civile all'inizio ci ha detto che esiste una rete capillare in tutto l'arco alpino rispetto al fatto che vi sono 25 centrali per 24.000 megawatt in esercizio nei 200 km dell'Italia. Concludiamo con Andrea Margelletti, caro amico, il presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, uno degli osservatori più documentati e più attenti sulle vicende internazionali. Insomma, questo Sarkozy che leva il suo ditino contro l'Iran, che ieri ha inaugurato la centrale di Bushehr, quanto bisogna prenderlo sul serio? Davvero c'è una prospettiva di questo tipo anche, cioè che per il nucleare iraniano grande disattenzione, invece per tutti gli altri nucleari ci fanno paura, come la pensi? Penso, innanzitutto buongiorno a te, grazie per l'ospitalità, penso che il vero problema sia che i francesi, dopo Enduring Freedom, soprattutto dopo Iraqi Freedom, dove hanno perso l'appoggio degli americani, oramai sono più realisti del re e quindi anche sulla vicenda iraniana cercano di essere aggressivi sperando di un occhio benevolo degli Stati Uniti. La stessa campagna in Libia è la testimonianza di come vogliano fare i proconsoli degli interessi statunitensi in Mediterraneo, interessi che peraltro gli americani vogliono che qualcun altro curi, perché loro hanno altre cose da fare. La vera, io ho soltanto la sensazione, forte sensazione, grande timore, che noi continuiamo a porci le domande sbagliate e guardiamo la parte sbagliata, cioè ci stiamo fortemente preoccupando per il nucleare iraniano, che è lecito preoccuparsi, ed è un nucleare militare, se mai lo sarà, e le armi nucleari sono armi politiche, non le ha mai utilizzate nessuno fuorché nella Seconda Guerra Mondiale, quando non c'era la contezza politica di che cosa era un'arma nucleare, dopodiché non le ha mai più utilizzate nessuno, né gli indiani né tantomeno i pakistani. E non ci preoccupiamo invece della politica di wahabizzazione, di radicalismo islamico che fanno i nostri amici sauditi, ad esempio, in Nord Africa, che in realtà sta uccidendo la laicità delle cosiddette primavere arabe, e quella politica di wahabizzazione rischia di avere pesantissime ripercussioni nei confronti dell'Europa e dell'Italia in primis, che è al di là del mare. Grazie a Margelletti per questo suo invito al realismo. Presto credo anch'io che dovremo fare i conti con una realtà molto diversa da quella che abbiamo raccontato, iper occidentalizzata di quello che avviene dall'Egitto alla Libia. Comunque, grazie a tutti, appuntamento a domani in Radio Giornale Radio. A chi è al dubbi sul nucleare e chi no, intanto anche ieri, grazie al cielo, la tragedia non c'è stata. 9 in punto.